Nel 1942 Otello Marinoni era fuochista al deposito delle locomotive di San Lorenzo. Il fuochista Otello Marinoni voleva diventare macchinista. Il fuochista era colui che aiutava il macchinista a far camminare il treno. Il fuochista era il braccio e il macchinista la mente, si potrebbe dire. Il buon fuochista si riconosceva da come sapeva usare la pala e la caldaia, da come gestiva il carbone e da come domava la fiamma. Ecco, il fuochista era il domatore del fuoco, è il termine esatto. Non era compito facile. Ogni fuochista era in coppia con un macchinista. I musi neri erano chiamati quei domatori del fuoco e in coppia portavano avanti e indietro i treni con le merci o con i viaggiatori, non faceva differenza, in pace e anche durante la guerra. Ad ogni coppia di musi neri veniva assegnata una locomotiva. La cura per quell'enorme cavallo di ferro era quasi maniacale. Bielle, staffe, corrimano, maniglie e poi ancora manicotti, giunti, rubinetti erano perfettamente lustri e funzionanti. Il collega di Otello, il macchinista, si chiamava Quinto. Era umbro, ma romano di adozione. L'amore lo aveva sradicato dalla sua Foligno. Otello e Quinto erano affiatati e si frequentavano anche fuori dal servizio, tanto che un paio di volte Otello, sua moglie Vera e i suoi tre figli erano stati ospitati in Umbria, dove Quinto aveva una casa. Quando la guerra arrivò anche a Roma, le cose presero un corso diverso. Le normali giornate si erano trasformate in incubi e pensieri cupi. La preoccupazione era di non finire nelle mani dei tedeschi, ma soprattutto dei fascisti. Otello abitava al quartiere San Giovanni, al 23 di via Magna Grecia. Quinto qualche strada più in là. Si davano appuntamento al cinema Massimo, a Piazzale Appio, e insieme si avviavano, ora a piedi, ora con la circolare, verso il loro deposito locomotive. Così facevano da tanto tempo. Ma una mattina accadde qualcosa. Era il 1943, una mattina di novembre. Erano le 5 e di buon passo i due ferrovieri erano già davanti alla chiesa di Santa Croce quando una camionetta della milizia fascista li superò tagliandogli la strada. Dal posto accanto al guidatore scese una camicia nera, un giovanotto, probabilmente il capo pattuglia, e con fare spavaldo e minaccioso intimò ai due di fermarsi. Otello e Quinto, con i loro fagottelli dove c'era il pranzo, ubbidirono immediatamente, senza scomporsi. Solo si fissarono per un attimo negli occhi. Il resto della squadraccia, un manipolo di 4 o 5 esaltati, era rimasto sulla camionetta a ridere grassamente. Il miliziano chiese urlando cosa stessero facendo in giro a quell'ora e roteava il suo manganello a ricordare chi fosse il detentore del potere. Era ubriaco e questo moltiplicava la sua esaltazione. Quinto, che da macchinista si sentiva un po' il responsabile, spiegò lui chi fossero e dove stessero andando. Stava portando una mano alla tasca della giacca per mostrare il permesso, quando una manganellata al collo lo stese a terra. Gli altri fascisti di colpo smisero di ridere. Otello, spiazzato, si chinò per aiutarlo, ma il fascista lo obbligò a rimanere dritto premendogli il manganello sotto il mento e freddandolo con uno sguardo. Quindi scoppiò a ridere insieme al resto della squadraccia. Quinto intanto si era rialzato dolorante e aveva esibito il permesso. Il miliziano, dopo averlo letto, lo strappò, scoppiando nuovamente a ridere. Quinto, che avrebbe voluto saltargli addosso e spaccargli la faccia perché di avere quel permesso voleva dire aspettare giorni, se non settimane, accennò una reazione, ma un'altra manganellata lo raggiunse alla testa mentre dalla camionetta scese il resto dello squadrone spianando minacciosamente i mitra. Otello cercò di calmare gli animi, scusandosi per il comportamento del collega, ma un'altra manganellata e un'altra ancora raggiunsero Quinto, che tentava disperatamente di proteggersi il capo. Otello supplicò. Quinto aveva famiglia, non aveva fatto nulla di male, ma quell'uomo gli brandì sotto il naso il manganello già sporco di sangue e con attaccati i capelli del suo amico. Gli altri fascisti gli puntarono contro i mitragliatori minacciandolo di morte. Altre manganellate si abbattevano sulla testa di Quinto. Il suo aguzzino si accaniva senza proferire parola. Solo un forte ansimare, quello della follia, spezzava l'aria. Le urla di dolore si erano trasformate via via in un rantolo, fino a che il corpo rimase esanime con la testa fracassata. Lo sguardo allucinato di quell'essere spregevole fissò per un lungo istante gli occhi di Otello. Sbuffava, sembrava eccitato. Poi, aggiustatasi la camicia nera, fece un cenno col manganello ai suoi di risalire a bordo e la camionetta si allontanò fragorosamente, mentre i suoi occupanti intonavano «Allarme siam fascisti». Otello rimase accanto al cadavere del suo amico, fino a che si fece giorno e giunsero gli ormai inutili soccorsi. La tragedia della guerra era entrata così nella vita di Otello Marinoni. Aveva perduto un collega, un amico, un confidente. Non ce la faceva, ma tornare al lavoro era un dovere, soprattutto verso la famiglia. Passò del tempo e anche se Otello ci provava a dimenticare, quella scena del massacro gli si ripresentava davanti ogni giorno, ogni notte. Rivedeva la faccia dell'assassino. Era una faccia che lui aveva già visto, ma non ricordava dove e quando. Finché un giorno gli venne in mente. In quell'assassino in camicia nera riconobbe Franco, il figlio di Ettore, il macellaio di Piazza Tuscolo. Una mattina Otello andò a cercarlo alla bottega del padre e fortuna volle che Franco fosse proprio lì. Era seduto dietro la cassa. Otello cercò il suo sguardo, voleva assicurarsi che fosse lui. E infatti non si era sbagliato. Il giovane incrociò a lungo lo sguardo di Otello e, infastidito dalla sua insistenza, chiese spavaldamente all'uomo cosa avesse da guardare. Otello, in silenzio, uscì dalla macelleria. La rabbia lo macerava dentro. Era lui. Era lì. Avrebbe voluto ucciderlo, magari con un coltello da macellaio, uno di quelli che usava suo padre, magari davanti agli occhi di suo padre. D'altronde, pensava, era una bestia. Ed era giusto trattarlo come una bestia. Avrebbe voluto denunciarlo, questa volta facendo nome e cognome. No, non era stata un'aggressione da parte di ignoti, come disse la polizia. Era stato lui. Ma dopo? Franco era nel partito fascista. Otello avrebbe potuto rimetterci il lavoro, se non peggio. Era ormai passato quasi un anno. Una mattina di maggio, Otello era alla stazione Termini e il suo treno era in partenza per Firenze. Stava dando gli ultimi ritocchi alla sua locomotiva. La caldaia era in pressione e la macchina sbuffava in attesa di partire. Era con Mario, il suo nuovo collega. Mancavano pochi minuti alla partenza, quando, con fare deciso, si presentarono sotto la locomotiva due camicie nere. Chiesero di salire a bordo perché volevano fare il viaggio con i musi neri e provare l'ebbrezza della guida. Non avevano alcuna autorizzazione scritta e Mario cercò di spiegare che non era possibile, ma la loro arroganza prevalse. Otello era sopra la locomotiva a controllare il fuoco e il rumore della caldaia copriva il vociare concitato del suo collega con i due fascisti. Vedendoli quindi salire a bordo cercò di opporsi anche lui, ma il macchinista gli fece capire che sarebbe stato fiato sprecato. Il posto di guida della locomotiva a vapore altro non era che un terrazzino coperto e lo spazio era a malapena sufficiente per due persone. Solo quando il treno mosse dalla banchina, Otello ebbe modo di osservare meglio i due e si rese conto che il più giovane era Franco, il figlio del macellaio, l'assassino di Quinto. Otello si legò il fazzoletto sul naso e sulla bocca, come era abitudine durante il lavoro, ma anche perché temeva di essere riconosciuto da Franco e continuava a fissarlo. E tanto gli si leggeva la rabbia negli occhi che Franco gli ordinò di abbassare lo sguardo e di pensare al fuoco. Quando cominciarono le prime curve all'uscita da Roma, Otello, non visto dai due fascisti, spiegò rapidamente a Mario chi fosse uno di quei due idioti. I due fascisti erano entusiasti di quell'esperienza e non si curavano affatto che la loro presenza potesse impedire ai due ferrovieri di lavorare come d'abitudine, tanto che Otello finì per urtare Franco con la pala. Per tutta risposta Franco lo colpì con un ceffone. Otello non reagì, ma tornò a fissare Franco negli occhi e questa volta brandiva la pala, stringendone forte il manico. Franco mise mano al manganello e con tono di scherno sfidava Otello a colpirlo. «Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare con quella pala? Cosa vuoi fare?» E Otello lo colpì. Lo colpì con la pala, aprendogli quasi completamente la testa con un colpo solo. L'altro fascista estrasse la pistola, ma Mario da dietro lo trafisse col forcone, quello per rastrellare il carbone. I due ferrovieri si fissarono negli occhi. Non si dissero nulla per un bel pezzo. C'era da condurre il treno. Solo il rumore ritmato delle rotaie faceva da sfondo al loro silenzio. Erano pallidi. Avevano commesso anche loro un omicidio come Franco, che ora giaceva ai loro piedi con la testa spaccata e con il sangue che si era raggrumato con la polvere di carbone. Gettare i corpi dal treno in corsa, magari passando sopra un fiume o tra gli arbusti lungo la massicciata. Qualcuno avrebbe potuto trovarli. Intanto il treno, sbuffando, attraversava le campagne toscane. Firenze non era lontana. Questa è la storia di Otello Marinoni. Questa è la storia del fuochista che voleva diventare macchinista. La cosa importante da ricordare non è se ci sia riuscito o meno. La cosa importante è raccontare di un domatore del fuoco che una mattina di maggio del 1944 alimentò alla perfezione la caldaia della sua locomotiva. La locomotiva dell'accelerato 23506 per Firenze, dove riuscì ad arrivare, si narra, con straordinario anticipo sull'orario previsto. Negli anni a seguire, a chiunque gli chiedesse cosa mai avesse messo nel fuoco per far andare la sua locomotiva così veloce, Otello avrebbe risposto: due camicie nere che non servivano più.